Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Sposi con lo sponsor, anzi con gli sponsor. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di come abbattere i costi del matrimonio attraverso la pubblicità. Focus sui trend dedicato invece al fenomeno no kids, quando i bambini non fanno tendenza. Prima però ci sono le notizie e curiosità della settimana. 38 sfilate in 4 giorni. Apre Cornigliani, chiude Coveri. È Milano Moda Uomo, in programma dal 18 al 21 giugno prossimi. White, invece, punta su uomo e donna insieme. Dividere le sfilate maschili da quelle femminili è un concetto vecchio, dicono gli organizzatori della fiera, che si terrà negli stessi giorni nella capitale della moda. Niente più pubblicità ammiccanti per gli abiti da bambini e ragazzi. Stop ai cartelloni pubblicitari con immagini sexy vicino a scuole e asili. Stretta sugli spot e programmi TV da adulti prima delle 21. Con lo slogan «Lasciate che i bambini siano bambini», il primo ministro inglese David Cameron si prepara a lanciare una vera e propria battaglia di moralizzazione per mettere al riparo i più piccoli da stereotipi e messaggi non adatti a loro. Lavate i vostri jeans una volta ogni 2 settimane e contribuirete al risparmio d'acqua. È l'invito lanciato da Levi's con i suoi nuovi Waterless Jeans, la cui produzione, viene spiegato in una nota, richiede fino all'88% in meno d'acqua rispetto ai classici denim. Maglietta bianca e gonna lunga di seta o pantaloni di lamè. È il nuovo look da sera firmato da stilisti come Jill Sander, Antonio Marras e Givenchy. Simbolo dello stile casual, la Lux T-shirt è già stata adottata da molte star. Sono a Venezia, gli alberghi più cari d'Italia. La conferma arriva dalla Business Travel Survey di Uvet American Express, società specializzata nei viaggi d'affari. Per nottare nella città lagunare costa mediamente 137 euro a notte, 2 euro in più che a Milano, seconda in classifica. In coda Aosta e Palermo. Roma, con i suoi 121 euro per notte, rimane ai minimi europei, seguita soltanto da Madrid. Italiani più aggressivi e narcisisti. È la fotografia scattata dal Censis. Tra il 2004 e il 2009 le minacce e le ingiurie sono aumentate del 35%, le lesioni, le percosse e i reati sessuali del 26%. In crescita costante gli interventi di chirurgia estetica, che nel 2010 hanno raggiunto quota 450.000. Emblematico il consumo di antidepressivi. Le dosi giornaliere sono più che raddoppiate. La borsa della spesa. Ok, va bene, lo voglio. Dimmi che non sembro una cazzo di principessa. Che cosa devo fare? Non starò facendo uno sbaglio, vero? E va bene. Mi sposi? Sì. Hai invitato tutta la famiglia. Mai visto mia sorella così felice. Oh. Se soffre ti faccio a pezzi con un trinciapollo. Ehi, hey, Ian, ti facciamo a pezzi! Opa! Ian è vegetariano, non mangia carne. Come sarebbe a dire che non mangia carne? E va bene, ti farò l'agnello. City girl with the diamond ring. Ho solo 4 giorni per rubare il marito alla sposa. Ho 4 giorni per diventare la tua migliore amica e convincerti a farmi da damigella d'onore. Cosa? Digli che lo ami e basta. Sai, io mi rendo conto di aver scelto il momento meno opportuno. Sposami. Tanti film lo hanno raccontato, che stress i preparativi del matrimonio e che salasso soprattutto, a meno che non si trovi uno sponsor. E non ci riferiamo alle rispettive famiglie, uno sponsor vero, anzi più sponsor, che in cambio di pubblicità sui blog creati dalle coppie per il giorno del sì, offrano loro gli abiti, le fedi nuziali, le bomboniere, i fiori, in qualche caso persino il ricevimento e il viaggio di nozze. Nati negli Stati Uniti qualche anno fa, i matrimoni sponsorizzati si stanno diffondendo anche in Italia, dove sono già una ventina le coppie che hanno fatto questa scelta. Questa formula, del resto, ha tutti gli ingredienti delle formule commerciali di successo. C'è la dimensione social, perché i blog ovviamente sono collegati alle pagine Facebook, c'è la filosofia low cost e quella win-win, perché tutti vincono, gli sposi che risparmiano e gli inserzionisti che guadagnano visibilità. Elisa e Walt, 27 anni, hanno creato il blog lo scorso dicembre. Mi sposo con lo sponsor.blogspot.com. Sabato prossimo è il grande giorno e sono riusciti a coprire quasi tutte le spese. Noi abbiamo di recente acquistato casa, quindi tutto quello che avevamo risparmiato da formichine lo abbiamo investito nell'appartamento che abbiamo comprato. Così mi è venuto in mente di provare, un po' per gioco. Sinceramente non pensavo ci fosse in Italia la mentalità giusta per questo tipo di iniziativa, e invece insomma la cosa ha funzionato. Quindi ho creato un blog che è diventato la piattaforma su cui poi si è concentrata tutta la nostra iniziativa, e abbiamo iniziato poi a contattare tutti i fornitori, quindi abbiamo mandato tantissime mail a fornitori nel settore matrimonio, e nel giro di pochissimo tempo, cioè tipo nel giro di un mese, siamo riusciti a trovare praticamente metà degli sponsor, e poi siamo andati avanti nella ricerca, quindi insomma abbiamo abbattuto praticamente il costo di oltre l'80%. Gli abiti, l'auto, le bomboniere, il servizio fotografico, il servizio video, la musica, partecipazioni, menù, segnatavolo, quant'altro, le wedding camera da mettere sui tavoli, lanterne volanti da lanciare in aria durante la cerimonia, insomma tutta una serie di cose. Ecco, l'unica cosa che non siamo riusciti a farci sponsorizzare è stata la cena, diciamo, che però vabbè, siamo riusciti a trovare comunque un ristorante abbastanza economico per le nostre tasche, e quindi insomma va bene così. Si dice insomma che in cambio di questo si perda un po' della privacy, perché come dire, il vostro blog diventa un po' una vetrina. Ecco, questo voi l'avete accettato, lo percepite come tale o che cosa? Sì, diciamo di sì, anche perché comunque ci ha un po' assorbiti anche la cura del blog, comunque insomma l'aggiornamento eccetera ci ha portato via tanto tempo, e quindi insomma lo stress dovuto ai preparativi normali per un matrimonio insomma è andato anche a aumentare, perché comunque riceviamo tante richieste da parte di altre coppie che vogliono sapere come abbiamo fatto. Anche l'aspettativa che magari lo stesso sponsor si crea, no, nei nostri confronti, insomma ci fa stare un po' in ansia. Ci crediamo davvero in questo progetto, e al di là del risparmio ci piacerebbe che poi tutti gli sponsor riuscissero davvero ad avere la giusta visibilità e il giusto ritorno economico. I parenti, i genitori, i fratelli, gli amici come hanno preso questa vostra idea? Abbastanza bene, magari inizialmente un po' titubanti, un po' insomma un po' scettici, poi in realtà quando hanno visto che l'iniziativa ha preso piede, diciamo che si sono anche entusiasmati, perlomeno la maggior parte di loro. C'è chi dice che magari la famiglia potrebbe prendere male una cosa di questo tipo, però in realtà noi abbiamo cercato appunto di far questo per non chiedere soldi, e quindi insomma cioè nel senso possono solo stare zitti. Aurora e Terence, sposi con sponsor.blogspot.com, una casa, un mutuo e un bambino, si sposeranno a settembre. Il giorno del sì, gli sponsor potranno anche allestire il loro stand nel luogo del ricevimento. Siamo veramente a buon punto, perché effettivamente abbiamo le bomboniere, abbiamo i segnaposti, abbiamo chi ci segue per quella giornata, quindi un organizzatore di eventi, abbiamo i fuochi d'artificio, sono circa 12 sponsor in totale, perciò ci manca ancora la torta e il trucco e il parrucco, quelle due cose ci mancano. Il rinfresco ci viene praticamente scontato fortemente da un agriturismo della zona di Maranello. All'inizio c'era un po' di perplessità fra tutti quanti, però alla fine ci hanno appoggiato tutti quanti. Gli amici ci seguono in continuazione, i parenti ci danno dei consigli, se riusciamo ad avere tutto quanto con poco, ecco. comunque sarà una festa sicuramente per noi, ma anche per chi sta partecipando, insomma, come sponsor e ci sta appoggiando in questa impresa, ecco. Chi omaggia il proprio operato verrà al matrimonio, perché faremo allestire una sorta di stand all'interno dell'agriturismo dove andremo. Potranno esibire un po' il loro settore, ecco. Essere e avere. Solo adulti, vietato ai bambini. Di nuovo in studio con Essere e Avere. Non stiamo parlando di consumi hot, è proprio questo il punto per il focus sui trend di questa puntata. Parliamo di no kids, niente bambini, una tendenza che fa dell'esclusione dei più piccoli il proprio punto di forza. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Dagli aerei ai ristoranti, fino agli alberghi, ai villaggi vacanze, alle spiagge, quella che sembrava una questione ideologica portata avanti dagli insofferenti è diventata invece un fenomeno commerciale che individua una consistente fetta di mercato. Così, in nome del silenzio e della tranquillità, la formula No Kids fa discutere ma raccoglie consensi. Patrizia. Sì, no kids, zero bambini. Suona in effetti un divieto discriminante, perché c'è una negazione, l'accento è proprio sull'assenza, sul senza. E trattandosi di bambini non stupisce la discussione che si è generata. In realtà è una delle tante formule commerciali esclusive, che di fatto significa anche escludenti per chi non è in target, evidentemente. E così come si dichiara espressamente di offrire servizi ad hoc per famiglie, si può anche sottolineare la preferenza per un target diverso. Certo, la comunicazione va fatta proprio in questi termini, non dando un messaggio di intolleranza o rifiuto di adulti con prole, peraltro non praticabile in termini di legge dalle strutture di accoglienza quali hotel, villaggi, eccetera. Il fenomeno No Kids è interessante perché dimostra come il mercato sia attento in questo momento all'evoluzione dei nuclei familiari contemporanei. La famiglia ormai va declinata al plurale, si parla di famiglie, di nuove famiglie, con tipologie aggregative diversamente articolate rispetto a quella tradizionale. Tra queste, single, le coppie senza figli, di qualsivoglia composizione, etero o homo, i cosiddetti DINKI, acronimo che sta per doppio stipendio, niente figli o non ancora figli, ecco, questi compongono un target interessante per potere di spesa e perché è un target disposto a riconoscere un valore economico, appunto, rispetto all'assenza dei bambini, che secondo loro costituiscono un disturbo, quindi conseguente non scelta o insoddisfazione rispetto all'esperienza di servizio. La policy No Kids è praticata, come dicevi, da destinazioni turistiche, alberghi, resort, che possono fare dell'assenza dei bambini un posizionamento o una temporanea personalizzazione del servizio, in modo da intercettare pubblici diversi che frequentano gli stessi luoghi di altri target, ma in orari, attività o momenti dell'anno diversi. Dalla catena di alberghi americana Sandals ai Caraibi, che accetta ragazzi solo dai 18 anni in su, Iberostar, catena di hotel spagnoli dai 14 anni in su, il 4 stelle Courtesan am See austriaco, albergo che dichiara benvenuti i bambini sopra i 12 anni, dicendo di non avere strutture adeguate all'accoglienza dei più piccoli. Pacchetti No Kids anche per club mediterranei in Italia, Tunisia e Turchia, caso emblematico questo di molti tour operator che promuovono formule villaggio solo per adulti accanto alla tradizionale offerta, che tra l'altro ne ha decretato anche la fortuna, cioè i baby club, che in un certo senso già erano una sorta di gestione separata dei bambini. E poi Sette Mari, operatore dell'area greca, che ha lanciato le vacanze adults only. In Italia il fenomeno non è ancora molto rilevante, ma c'è qualche esempio noto: l'hotel La Scalinatella di Capri, che preferisce ospiti over 14, Vera Tour, che pratica l'over 18 in Sardegna, Costa Crociere, che ha un po' ridotto il numero di cabine familiari a favore di coppie single e giovani, o l'hotel Morfeo a Rimini, parte della catena alberghiera Young People Hotels, che accoglie giovani fra i 16 e i 35. Il resort toscano La Veduta, che promette: la vostra vacanza non sarà disturbata dagli schiamazzi dei bambini. Il No Kids si diffonde non solo nei luoghi di vacanza, ma si allarga anche al viaggio, soprattutto quello aereo. Spesso indomabili generatori di rumore, in certi casi i bambini compromettono l'esperienza di consumo degli altri passeggeri. Tra le compagnie aeree, l'inglese Thomas Cook Airlines fa già 2 volte alla settimana le tratte Creta e Gran Canaria senza bambini e ha a catalogo 42 destinazioni resort per soli maggiorenni. Sembrava una scelta definitiva sul fronte No Kids anche quella di Ryanair, che lo scorso 1 aprile ha comunicato nuove tratte senza, virgolette, piccoli inconvenienti a bordo, ma come in altri casi si è rivelata questa una boutade provocatoria appunto da pesce d'aprile. I divieti, meglio le raccomandazioni No Kids nelle intenzioni degli esercenti, valgono per tutti i bambini, pesti o angioletti che siano, educati o maleducati. Ai bambini pestiferi si è ispirato più volte anche il cinema, dai Monelli, Stanlio e Ollio, a Mamma ho perso l'aereo, fino a Tata Matilda. Questo è troppo, andate a letto. I bambini sono sempre i bambini. Già, meno quando crescono però, eh. Questo è Gere Sapevo. Oh no, la mia famiglia è in Florida, io sono a New York. La mia famiglia è in Florida e io a New York. Vorrei un po' di limonata. Subito, però devi darci $2. Ma io solo un quarto di dollaro. Allora ti tieni la sete, testa di zucchina. Ehi, Junior, perché non vai tu a riempire la brocca al nostro posto? Se vai subito a riempirla, forse te ne daremo un bicchiere gratis. D'accordo. A voi serve Tata Matilda. So che siete stati molto cattivi. Patrizia, uno dei testi simbolo, quasi un manifesto del movimento Child Free è No Kid, 40 ragioni per non avere figli, della scrittrice e psicanalista francese Corinne Maillard, non nuova tra l'altro alle provocazioni. Una teoria che ha avuto molto seguito, soprattutto in rete, dove hai molti blog che parlano di figli, famiglia, mamme che lavorano, eccetera, se ne stanno contrapponendo altrettanti No Kids. Sì, al libro del 2007, ormai uscito in Italia nel 2008, di Corinne Maillard, che è madre, tra l'altro ha 2 figli, quindi presumiamo parli in parte a ragion veduta, è seguito sì molto rumore, il movimento Child Free si è espanso molto, soprattutto in rete ma anche fuori. Per esempio la grandissima festa a Parigi dei non genitori, organizzata l'anno scorso con lo slogan "evitiamo di creare nuovi potenziali consumatori", o come il libro, che è esempio di un genere in crescita, tra l'altro ora anche in versione digitale per iPhone, iPad, Child Free and Loving It, senza figli e felici di esserlo, di Nikki DeFago, ex giornalista della BBC, ora scrittrice, che descrive appunto una vita adulta felice senza figli. Un esame di realtà nell'esperienza comune di ognuno di noi, genitore e non, ci dice come le esigenze di grandi e piccoli siano effettivamente davvero molto diverse, e non è difficile quindi comprendere chi non voglia condividere spazi, soprattutto in vacanza, con i figli degli altri. Non è disamore per l'umanità, ma consapevolezza di incompatibilità esperienziale, parliamo del mondo dei consumi, che chi non ha voluto figli traduce in domanda di servizi specifici e che le diverse formule No Kids risolvono. In questo senso le politiche child free, protettive diciamo rispetto ai bambini, sono associabili a quelle mobile free, vietato il cellulare, adottate da società di trasporti ferroviari europee in Spagna e in Germania, che riservano per esempio alcune carrozze dei treni a chi vuole viaggiare senza subire suonerie e conversazioni altrui. D'altra parte in Giappone esistono anche carrozze riservate a famiglie con bambini e neonati, attrezzate per ogni esigenza fisiologica e di intrattenimento dei più piccoli. Quindi, in sintesi, più che indignarsi o temere o condannare la discriminazione potenziale dei bambini e delle famiglie intrinseca al fenomeno No Kids, è interessante analizzare questa nuova domanda child free da soddisfare, osservando come il mercato declini questi prodotti e servizi e come presidi questo nuovo segmento in espansione. Segmento che si sta estendendo, per esempio, anche a matrimoni, con società che organizzano eventi nozze ad hoc, al housing, con agenzie